Cavolo, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. La crisi di questi giorni prima o poi finirà, come tutte le crisi. E già da ora è possibile intravedere qualche segno di ottimismo. Di certo lo sgonfiamento della bolla immobiliare è positiva per quelle famiglie che vogliono acquistare casa. Inoltre il prezzo del petrolio è meno della metà rispetto ai massimi dell'estate e questo alleggerisce la bolletta delle famiglie e delle imprese. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Le parole che vi ho appena letto sono di Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore, che oggi sul Sole 24 Ore proprio cerca di trovare quelle che chiama le occasioni nascoste e per dire non solo pessimismo di fronte alla crisi. Gli elementi che già vi abbiamo letto, agli elementi che già vi abbiamo letto ne aggiungono altri. I corsi in picchiata delle materie prime fanno scendere anche il tasso di inflazione, scrive Galimberti, rafforzando il potere d'acquisto dei consumatori. Inoltre l'indebolimento dell'euro riduce le difficoltà dell'export verso l'area del dollaro. Da ultimo il sistema produttivo non può che ricevere una spinta dalle difficoltà di oggi. Non c'è niente che concentri volontà e inventiva come l'istinto di sopravvivenza. Ecco, questa è, come dire, la visione ottimistica, le occasioni nascoste, gli elementi positivi che si possono intravedere nella crisi da parte di Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore, oggi sul quotidiano. E sarà proprio Fabrizio Galimberti ospite della trasmissione condotta dal nostro direttore Gianfranco Fabi dietro la notizia alle 8:30, e Galimberti parlerà proprio dei lati positivi della crisi finanziaria. Ma se vogliamo rimanere sul Sole 24 Ore, però, non possiamo non andare a vedere uno dei settori che hanno provocato la crisi finanziaria, gli andamenti di questo settore, cioè il mercato immobiliare. Il Sole 24 Ore del lunedì oggi apre proprio su questo. Casa, la crisi costa il 10%. È un'interessante inchiesta che così va letta. La crisi del mattone investe soprattutto le aree popolari abitate da stranieri e poco servite dai mezzi pubblici. In molti casi con riduzione di valore, ecco, questo è interessante, questo dato che dove esplode la crisi, no? Con riduzione di valore ben oltre il 10%, come rilevano i dati forniti dagli operatori di mercato. Leggiamo sempre il Sole 24 Ore di oggi in apertura. A livello di variazioni medie, Torino meno 4% e Genova meno 3,8% guidano le classifiche dei ribassi. Dietro il calo c'è la minore capacità di spesa di giovani coppie, immigrati e famiglie monoreddito. Resistono invece o subiscono cali frazionali i prezzi degli immobili di pregio, per lo più nei centri cittadini e nei quartieri alti. Quindi ci sta dicendo questa inchiesta proposta dal Sole 24 Ore che chi è più colpito sono proprio le case più popolari. L'offerta al top si difende bene anche nelle metropoli straniere, ma le previsioni d'insieme non sono positive. E c'è il borsino del mattone, le zone che hanno subito il calo dei prezzi più consistenti in 10 grandi città italiane: Genova il Lagaccio meno 15%, Roma Centro Giano meno 15,4%, Bologna Saffi meno 13%, Napoli Mater Dei meno 13%, e così via dicendo. Insomma, questo la proposta che ci viene fatta dal Sole 24 Ore, che ci, anche tra le altre cose, ci segnala quali sono le spese fuori controllo della sanità, i paradossi dei conti pubblici, un servizio sempre di prima pagina che poi segue all'interno. Ma se vogliamo rimanere nelle previsioni, nell'economia per fare i conti anche con quell'ottimismo di cui parlava Fabrizio Galimberti, però non possiamo non vedere che il titolo, per esempio, del quotidiano La Repubblica non ci induce a tanto ottimismo, perché il titolo è Crisi, la UE è pessimista, crescita zero e recessione. Vediamo cosa ci dice questo servizio di D'Argenzio e Iezzi. Pessimismo dell'Europa a causa della crisi della crescita zero ulteriore recessione in Italia. Il momento dell'economia è così grave da far tagliare le cifre precedentemente pubblicate dalla UE e anche quelle decisamente negative emesse 10 giorni fa dal Fondo Monetario Internazionale, con un allarme per il nostro paese che avrà PIL negativo nel 2008 e nel 2009. Anche per questo, dati allarmanti, il ministro Brunetta annuncia nuovi provvedimenti, niente aumenti in tredicesima, ma premi alla produttività. E questo è quello che leggiamo appunto a proposito della crescita zero. Ci sono delle tabelle di previsione e confronto sul PIL italiano 2008 che non sono davvero consolanti, e infatti qui abbiamo un'intervista di Luca Jezzi a Brunetta che dice niente aumenti in tredicesima ma premi la produttività. Brunetta non si sa perché la CGIL scioperi, e poi dice il ministro no a interventi generalizzati. Ora la Repubblica si occupa anche del tema che ci terrà tutti in attesa trepidante, anche Radio 24 starà in diretta, una lunga diretta sulle elezioni americane. E sì, Obama allo sprint finale in testa negli stati chiave, ma Vittorio Zucconi dice vigile di guerra tra sogno e paura. E Zucconi scrive a questo proposito: se ancora oggi, nell'ultima corsa di Obama attraverso gli stati incerti, il messaggio del candidato democratico è non fidatevi, non dormite, non esultate sulla linea di metà prima di averla attraversata, è perché nessuno meglio di lui sa che il grande enigma che impregna queste elezioni è la mancanza di precedenti nella storia politica. Non c'è mai stata un'elezione come questa, scrive Zucconi sulla Repubblica, mai. Non ci sono mai stati tanti indecisi a 24 ore dal voto, e se sono ancora indecisi dopo 21 mesi di campagna elettorale, 800 milioni di dollari bruciati in spot televisivi a pagamento, 28 milioni di robot telefonate fatte da voci registrate e numeri presi a caso, a volte per mettere in guardia contro i nigger anche elettori neri, 10 milioni di cittadini ancora non hanno scelto per chi votare. Significa che la paura li gela, che il timore di tuffarsi nel mare ignoto di questo rivoluzionario cerebrale chiamato Obama lo paralizza. Alla fine saranno tentati di sdraiarsi sul vecchio sofà del senatore McCain. Ecco, questo insomma è quello che scrive Vittorio Zucconi a proposito delle elezioni americane. La vendetta dei baby boss, gabbizzati i piccoli rivali. Avete sentito dai GR la terribile notizia che viene da Napoli, e tutti i quotidiani oggi ne parlano, ma ancor più impressione fa la reazione, si legge in alcuni retroscena, dei ragazzi in strada a scuola di violenza, scrive per esempio il quotidiano La Stampa. La faccia vuole essere quella di un duro, ma la voce non inganna, è quella di un ragazzino, anche se nei vicoli di Secondigliano si cresce in fretta, specie quando si sta fuori a casa fino a mezzanotte, già a 12 anni, con gli amici a bruciare le ore nella sala giochi. E così si atteggiava uomo il mondo, il piccolo ferito che ieri parlava da un letto di ospedale. Paura? Ma quale paura? Che volete? Sono cose che succedono se si sta in mezza via. Se l'è cavata così alle domande degli adulti in divisa, uno dei ragazzini coinvolti nella sparatoria della Zanzibar, con la sua picciola filosofia di strada, quasi orgoglioso di essere diventato grande, per come si intende l'età adulta in certe famiglie. Sì, e anche altri quotidiani, il Corriere della Sera riporta questo tipo di reazione, insomma, che fa una certa impressione, oltre al, come dire, l'impressionante notizia di questa sparatoria nei confronti dei ragazzini. E Amato Lamberti, il sociologo Amato Lamberti, sempre sul quotidiano La Stampa, dà delle chiavi di lettura. Da quando la Camorra spara i ragazzini? È la prima volta. In genere le intimidazioni di questo tipo portano a bruciare un locale, a far saltare la sala cinesca o a colpire bersagli precisi. In questo caso ci sono 4 delinquenti che sparano all'impazzata senza avere paura di uccidere dei ragazzini. Che cosa è cambiato? La delinquenza è sempre più generalizzata. A Napoli e nell'Interland siamo di fronte a un livello di violenza spaventoso. Fa paura soprattutto quando emerge il coinvolgimento di questi minorenni. Piccoli criminali crescono, erano ragazzini anche quelli che hanno sparato, e tutti diventeranno grandi criminali. Questi sono bambini cresciuti nella criminalità già a 7 anni, vengono impiegati come corrieri, spacciatori o portaordini, o come foderi portaarmi per nascondere dopo un agguato, il tutto col consenso delle loro famiglie. Che cosa si dovrebbe fare? Bisognerebbe controllare meglio alcuni luoghi sensibili come le sale di videogiochi, spesso vere e proprie basi logistiche per lo spaccio di droga. Bisognerebbe offrire a questi ragazzini opportunità diverse di vita, formarli, agire sulla prevenzione invece di prenderli, metterli in casa carcere e poi dare loro i corsi per imparare a diventare pizzaioli. Questo è un sociologo, Amato Lamberti, sul quotidiano La Stampa. La Stampa però si occupa anche di università. Luca Ricolfi, un editoriale dal titolo Università Italia e il consenso. Fino a un paio di settimane fa Berlusconi si vantava di avere il 72% dei consensi. Da qualche giorno invece, forse complici le due grandi manifestazioni di fine ottobre promosse dal Partito Democratico e dai sindacati, nel governo si stanno facendo strada atteggiamenti più guardinghi. Pare che Bossi sia preoccupato dei tagli ai bilanci degli Atenei e che Berlusconi si stia chiedendo se bloccare la Gelmini congelando i provvedimenti sull'università attesi per i giorni prossimi. I timori di Berlusconi sono basati su sondaggi che in effetti non vanno troppo bene per il governo. La luna di miele con gli elettori sembra finita e l'opposizione pare recuperare qualche punto nelle intenzioni di voto degli italiani. A quanto pare Berlusconi teme la piazza, mentre Veltroni spera di continuare a cavalcarla. Dice tutto bene dunque, tutto chiaro? No, dice Luca Ricolfi, ci sono alcune complicazioni. La prima è bene distinguere tra consenso assoluto e consenso relativo, e come dire nell'analisi, nella lunga analisi di Luca Ricolfi, una delle complicazioni è proprio per la sinistra, per il Partito Democratico, che dice non è che con il calo dei consensi per il governo aumenta proporzionalmente quello per il PD, non è così, anzi talvolta i cali sono per ambedue gli schieramenti e c'è un ritorno alla non politica. Questa è la tesi di Luca Ricolfi sul quotidiano La Stampa. Ma se ci trasferiamo al Corriere della Sera, troviamo intanto altri temi prima di passare al Corriere della Sera, voglio segnalarvi, me lo sono scordato, che sul quotidiano La Repubblica c'è un'intervista di Calderoli a proposito di università che forse farà discutere anche all'interno del PDL, perché dice chiamiamo subito Veltroni, certe riforme si fanno uniti. Calderoli dice in passato ho sbagliato anch'io cambiando la Costituzione a colpi di maggioranza. La prima persona che Roberto Calderoli, ministro della semplificazione, chiamerebbe a parlare di università è, così dice, Walter Veltroni. E perché vuole aprire a Veltroni sui temi università? So di aver commesso un errore in passato, quando ho fatto di tutto per cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza. Dagli errori bisogna imparare. Sulla scuola ci vuole un discorso unitario. In nome di che cosa? È un settore che gode di una propria autonomia e questo tema deve rientrare nel discorso più generale delle riforme costituzionali. Quindi ecco questa presa di posizione di Calderoli è molto, diciamo, anomala rispetto alle previsioni. Ma sempre rimanendo sull'università, voglio segnalarvi sul Corriere della Sera Francesco Giavazzi, che l'economista, liberista, editorialista poi del Corriere, che scrive il movimento degli studenti nato in queste settimane è diverso da quello di 40 anni fa. Abbandonate le illusioni del 68, l'immaginazione al potere, gli studenti pongono richieste che dimostrano chiarezza e maturità, diversamente dalle fumose dissertazioni di molti politici. Governo e opposizione hanno il dovere di dare una risposta evitando di ridurre l'università a uno dei tanti temi di scontro politico. È già accaduto per la scuola elementare e non è stato uno spettacolo edificante. Alcuni problemi richiedono un intervento urgente. Si tratta innanzitutto di modificare entro la fine di questa settimana le modalità dei 4-5.000 concorsi già banditi, che sono un vero scandalo. È sufficiente un decreto del governo per impedire questo scempio. Questo scrive il Corriere della Sera, Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera. Altre due cose a segnalarvi. Una curiosa, che mi pare solo il Corriere della Sera. Berlusconi vivere fino a 120 anni. In un futuro prossimo si potrà vivere fino a 120 anni in buona salute. Gli strumenti ci sono tutti: medicina preventiva, esame del DNA, cellule staminali. Lo afferma Silvio Berlusconi in un articolo scritto per la rivista del San Raffaele. Ed effettivamente noi andiamo a vedere questo servizio. Berlusconi scommette sui 120 anni, un politico deve vivere a lungo. Scrive il Premier, se la durata media della vita è stata di poco superiore ai 20 anni sino all'800, di 40 anni all'inizio del 900 è arrivata oggi a 80 anni, perché non può davvero arrivare in un futuro prossimo a 120 anni vissuti in buona salute? Gli strumenti ci sono tutti, con la medicina preventiva, con il controllo a distanza, con l'esame del DNA, con l'utilizzazione delle cellule staminali, con un conseguente razionale stile di vita, ogni soggetto sarà nelle condizioni di conservarsi fino a un'efficienza più lunga. E ci sono infatti ci sono anche le foto di un Berlusconi nel 94, nel 2000, nel 2002 e nel 2008, quasi a dire posso vivere fino a 120 anni. E il Corriere della Sera invece affida a Ernesto Galli della Loggia un tema delicatissimo e sul quale Ernesto Galli della Loggia ha delle idee chiare: le spalle al cristianesimo, le uccisioni dimenticate. Dall'India alle Filippine, dall'Iraq al Pakistan si susseguono gli assassini di sacerdoti e di fedeli cristiani, per lo più cattolici, anche se numerosi sono pure i protestanti. Di fronte a queste uccisioni l'opinione pubblica occidentale ha una reazione ormai scontata, gira la testa dall'altra parte. Non fa sostanzialmente eccezione, cosa all'apparenza straordinaria, neppure la parte esplicitamente cristiana di quell'opinione pubblica, quasi che avesse il timore, alzando troppo la voce, di rendere le cose ancora peggiori. Questo scrive Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera e così aggiunge: naturalmente viene da chiedersi quale sarebbe invece la reazione dell'uomo della strada, dei media e dei governi occidentali se in una qualunque parte del mondo ad essersi presi di mira per la loro appartenenza religiosa al posto dei cristiani ci fossero i seguaci di altre confessioni, per esempio gli ebrei. Ma chiederselo sarebbe solo indulgere in una polemica sterile. In realtà, infatti, la reazione quasi inesistente dell'opinione pubblica alle notizie di uccisioni di cristiani non è niente altro che il frutto di fenomeni profondi da lungo tempo all'opera delle nostre società, l'effetto di lenti smottamenti ideologici che ne stanno cambiando il profilo ultramillenario. Ci sta dicendo Ernesto Galli della Loggia che vi è una crisi, diciamo, di consenso della cultura cristiana e cattolica. E ancora dice che esso sia debba obbligatoriamente essere invece un fatto solo privato. Ne consegue come cosa ovvia che le sorti pubbliche e storiche non ci riguardano più. Figuriamoci poi se si svolgono in qualche remota contrada dell'Asia o dell'Africa. A sentire in questo modo ci ha spinto paradossalmente lo stesso senso comune diffuso per molti anni in tanta parte del mondo cattolico, il quale fino ai tempi assai recenti è stato attentissimo anche nella sua massima espressione istituzionale a non essere collegato a nulla che sapesse di Europa o di Occidente, per paura che ciò avrebbe automaticamente messo in pericolo la sua autonomia politica o macchiato la sua purezza evangelica, nutrendo forse la speranza, non saprei quanto fondata, che alla fine ciò che gli avrebbe fatto guadagnare altrove il terreno che qui andava perdendo. E quindi questo è davvero una denuncia, diciamo, di quello che... Vi lascio il Corriere con una vignetta di Giannelli, molto, due che se la ridono alla grande, uno gli dice: la sai l'ultima, qual è? Il prestito ponte sarà rimborsato dall'Italia, insomma, che sembra quasi, come dire, una barzelletta. Il Corriere poi, come altri giornali, riporta un Andreotti malore in diretta, i contrattempi dell'età. E questo il Corriere della... Il giornale intanto affida a Nicola Porro un editoriale di controtendenza, perché c'è l'Obamamania, come si è detto, in Europa soprattutto. Ecco, Nicola Porro firma un editoriale dal titolo "Attenti a Obama, l'America al voto". L'innamoramento italiano per Obama evidenzia degli aspetti interessanti della politica e in particolare di alcuni esponenti del nostro governo. Alcuni ministri, Bondi e Gelmini, fra tutti, ma mi sembra anche Silvio Berlusconi, hanno reso pubblica la propria cotta, non cotta quella di Berlusconi, ma adesione, mi pare di sì. C'è un servizio apposito su un quotidiano in cui si dice che parte del PDL si è espresso per Obama, tra cui il Presidente del Consiglio. E addirittura Frattini dice: sì, i due hanno uno stile comune. Ha ragione Fiamma Nierenstein oggi sul Giornale quando scrive che il sentimento è originato dall'illusione di vivere il consenso del politicamente corretto. Con ciò però cadono in una trappola micidiale, scrive Nicola Porro. Sposano un'idea di novità senza conoscere i contenuti. Sono affascinati da quella piazza mediatica che proprio contro di loro oggi è alimentata. Una sorta di sindrome di Stoccolma in cui i prigionieri del consenso si armano contro se stessi. Lo sanno inoltre costoro che Obama, con i limiti di un candidato americano, chiede di fatto l'aumento della pressione fiscale, propone un maggiore protezionismo, considera l'Europa marginale tra i dossier di politica internazionale, non vuole la costruzione di nuove centrali nucleari a differenza di McCain, che ne richiede 45 entro il 2030. Edward Prescott, premio Nobel per l'economia del 2004, ha rifiutato di entrare nel panel di economisti di Obama con queste parole: sapete perché l'Europa è così depressa rispetto agli Stati Uniti? Perché segue le politiche che Obama sta proponendo. Gli Stati Uniti oggi hanno un grande problema di immagine, sono all'origine della crisi finanziaria globale, sono impegnati in difficili fronti di guerra. E questo dunque, Nicola Porro, come dire, attenti a Obama, non è tutto oro quello che luccica. La razza, la democrazia e quella signora che ha paura. Questo è il titolo del taccuino americano del professore sul quotidiano Il Messaggero. E il professore è il professor Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, che si è trasformato in commentatore delle elezioni americane. Qui negli Stati Uniti, scrive Prodi, tutti gli analisti politici danno Obama come vincitore. Ma poi essi stessi chiedono quasi increduli se un paese può cambiare così rapidamente la sua storia e dimenticare le sue divisioni. La razza fino a pochissimo tempo fa era la frattura insanabile dell'America, la bomba ad orologeria per il suo futuro. Oggi un candidato nero è il più probabile presidente degli Stati Uniti. Indipendentemente dal risultato elettorale, questo solo fatto è la dimostrazione della capacità di cambiamento della società americana. Dopo anni di progressivo isolamento, sono gli americani stessi a voler offrire al mondo un volto nuovo, una faccia che per la sua diversità col passato presenta anche l'immagine di una nuova America. Questa campagna elettorale, scrive Romano Prodi sul Messaggero, è quindi già di per sé stesso un cambiamento radicale, anche se ancora impressa l'immagine di una signora che stamattina davanti alle telecamere ripeteva con insistenza: ho sempre votato democratico, mi piacciono le idee di Obama, ma Obama mi fa paura. I cambiamenti non sono facili, conclude Romano Prodi, né per i paesi né per le persone, ma la grandezza della democrazia è proprio quella di sapersi rigenerare dall'interno. Questo Romano Prodi, mentre passando all'attuale Presidente del Consiglio, il Messaggero dedica, Fabrizio Rizzi dedica un servizio proprio a Università e Berlusconi. Università, Berlusconi media, meno tagli. Forse si spiega perché è legato a quella cosa che Luca Ricolfi sostiene sulla stampa, cioè i sondaggi che cambiano, la paura di perdere consensi. Comunque questa è la tesi del Messaggero. Una riforma dell'università con meno tagli. Silvio Berlusconi smentisce uno stop al provvedimento, ma è deciso a prendersi il tempo necessario per arrivare a una riforma equilibrata che elimini gli sprechi. In settimana un vertice di maggioranza traccerà il cammino, anche se l'ipotesi di procedere con un disegno di legge, non più con un decreto, è la più probabile. Tra le file di AN c'è volontà di condividere un testo con l'opposizione, almeno sui singoli punti. E abbiamo visto che sulla Repubblica un'intervista a Calderoli è sulla stessa strada, cioè addirittura di convocare Veltroni. L'importante è evitare il muro contro muro. Oggi scenderà in campo la diplomazia per avviare i primi passi del confronto. Disponibilità del PD, primi interventi sulla governance degli Atenei e sul reclutamento dei professori. Da PDL e Lega in arrivo un emendamento per evitare il taglio di 133 milioni di euro alla scuola paritaria. Questo sul Messaggero, mentre se noi andiamo a vedere ogni lunedì il Corriere della Sera e la Repubblica hanno degli inserti, dei dorsi economico-finanziari. Il Corriere della Sera, Corriere Economia, titola in prima pagina: la nuova America e la Cina, quel dialogo contro la crisi. Per uscire dal tunnel il neopresidente dovrà misurarsi con il paese leader della crescita. E poi un servizio fatto da Dario Di Vico, vice direttore del Corriere della Sera, che ci invita, con intervistando l'economista Michele Salvati, ci invita a vedere, a leggere la crisi attraverso i pensatori e gli economisti. E dice Schumpeter: per capire, Keynes per curare. Con la recessione la politica torna sempre al New Deal e alla spesa pubblica. Ci sono i grandi maestri, tra cui compare anche Karl Marx, dice Karl Marx dice Salvati viene rispolverato ad ogni crisi del sistema. Secondo Salvati, tuttavia, il pensiero di Marx non aiuta a capire la crisi in corso. Casomai, diciamo, di Karl Marx bisogna rivalutare le previsioni della crisi del capitalismo. E ancora, John Maynard Keynes, padre ideale del New Deal, viene puntualmente riscoperto nei momenti di crisi, e lo stesso Michele Salvati dice bisogna rileggerlo per capire come si è risolta la crisi, mentre secondo Michele Salvati per capire come è scoppiata la crisi bisognerebbe leggere Schumpeter, grande economista. Questo vi dicevo, poi c'è anche un servizio sul sistema Intesa flagellata e prova dei conti, la crisi che ha colpito in borsa il titolo Intesa San Paolo sembra affondare le proprie radici nel legame che unisce la banca guidata da Corrado Passera con le aziende italiane, così che la gelata economica rischia di condizionare i conti del gruppo bancario. Questo scrive mentre il quotidiano L'Unità, Affari e Finanza di Repubblica, intanto l'avevo citato, giù le mani dalla passivity rule, il governo studia l'eliminazione della norma che impedisce ai manager di difendersi da scalate ostili senza il voto dell'assemblea, ma c'è il rischio che una modifica del genere faccia fuggire dalla borsa italiana gli investitori esteri e ci riporti a un mercato più chiuso e opaco. Questo sul dorso di Repubblica Affari e Finanza, mentre L'Unità pubblica la foto come Gomorra, commando a Secondigliano, gambizza 5 minorenni nella sala giochi, Camorra contro i ragazzini, e vi è la foto tratta dal film Gomorra di due ragazzini che prima sparano a destra e a manca e poi vengono ammazzati dalla camorra perché avevano sfidato la camorra nei loro luoghi, nei suoi luoghi inviolabili. E poi c'è una vignetta di Staino che dice alla fine Air France si mangerà all'Italia a un prezzo assai basso, ma sarà salva l'italianità di quasi tutti i debiti. Questa è la cattivissima vignetta di dell'Unità, L'Unità che si occupa ovviamente Obama, domani possiamo cambiare la storia, e in qualche modo, come dire, e ancora l'intervista a James Hillman, addio giovani passivi, stavolta l'America la salveranno i ragazzi. Obama più che a una figura paterna fa pensare a un insegnante, John McCain piuttosto è il classico archetipo del padre leader, io vi proteggo ma si fa come dico io. E c'è un'intervista a James Hillman, nato ad Atlantic City nel 26, psicoanalista junghiano, e che cerca di dare una valutazione di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti e soprattutto il supporto dei giovani alla possibile vittoria di Barack Obama. E con questa segnalazione dell'Unità io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domattina.